YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buongiorno, chi vi parla? Buonasera, no, cioè, sono le 18 buonasera, di buonasera. Ricominciamo. Allora, buonasera, chi vi parla è stato autorizzato Marta Cagnola a aprire la trasmissione, sì, visto che ci avviamo verso la fine della stagione, leggendo o comunque conducendo, insomma, diciamo così. Buongiorno e bentornati a RadioTube, devo dire, il nuovo appuntamento che vi fa ascoltare, vedere ma alla radio memoria. L'imperdibile, l'imperdibilissimo eppure qualcosa che sarebbe stato meglio perdersi della settimana radiotelevisiva, ma radiotelevisiva non quella tradizionale, ma sulla rete. E adesso la mia co-conduttrice Marta Cagnola vi dirà gli account e l'hashtag della trasmissione. Sono preparatissima, il mio account di Twitter è @MartaCagnola, il tuo è @DiBellasio. E abbiamo anche un hashtag per tutte le vostre segnalazioni, che è cancelletto RadioTube. Promosso? Sei bravissimo. No, perché verso la fine, siccome parleremo di un talent giornalistico molto particolare, tentavo di avere la tua bella voce e la tua bella capacità di condurre una trasmissione. Secondo me ce la puoi fare, puoi farcela in italiano. Sai che sono emozionato, mi batte di più il cuore, come se questa volta fosse diverso. Non arriveremo in fondo a questa puntata di RadioTube. È tosta. Che facciamo in inglese. Diciamolo, è che comunque noi ci siamo nel palinsesto, cioè nel senso, molti sono andati in vacanza, il meglio di, il peggio di, noi invece siamo sull'attualità. Diamo solo il peggio, però in diretta. L'attualità. Noi. L'attualità, torniamo anche con un po' sì, di attualità politica. Politica. C'è una segnalazione, sai che c'è una segnalazione di un nostro ascoltatore che ci ha hashtaggato con RadioTube, ci ha anche hashtaggato la supercazzola? Si può dire? Se l'ha detto lui, l'ascoltatore. Poi soprattutto se l'ha detto lui, il maestro Enrico Mentana, alla 7, nello speciale che ha fatto martedì e sera. E si è messo a ridere dopo? Sentiamo cosa è successo dopo lo streaming di Matteo Renzi al PD. Prende la parola Enrico Mentana e commenta così. Io vorrei dire una cosa, perché ce l'avevamo presi un impegno, no, di parlarne nei termini più espliciti possibile. Voglio solo dire una cosa, Matteo Renzi è nato nel 1975 e in quello stesso anno appariva un film che ha fatto epoca, Amici miei, in cui c'era una, venne coniata una locuzione, la supercazzola, no? Per dire parlare tanto per non dire molto. Ho l'impressione che non sia stata del tutto estranea questa lezione del grande Monicelli all'intervento di Matteo Renzi. Ha davanti anche i suoi oppositori, gli ha detto non disturbate il manovratore, il macchinista, come c'è, no? Come c'era la scritta sui tram e sui treni. Sì, no? Prima li ha stremati. Assolutamente. Beh, insomma, la supercazzola l'ha detta Enrico Mentana, così pesante. Ha commentato. Subito ci è arrivata subito la segnalazione di Gabriele Andreoli, @GabrieleAndre1. Io me l'ero persa perché stavo guardando anche altre cose. Tac, subito. Allora sono andata a recuperarla all'istante. Renzi. Sì, Renzi, perché ti sei infervorata con questa storia dell'inglese, no? Sì, perché noi non abbiamo parlato la scorsa settimana perché c'erano tanti argomenti, sì, c'erano i mondiali. Sì, peggiorata la situazione poi dopo in rete. Sì, perché io volevo essere un po' buonino. Io all'inizio ho detto, vabbè, sì, però tutto sommato. No, il suo inglese non è proprio preciso, però si impegna, volevo dire. A una linguista come te lo posso dire, sì, no? La sì, lingua è uno strumento. Uno strumento deve essenzialmente funzionare. Se lui si fa capire ed è funzionale al suo discorso, ma ben venga un po' di, diciamo, allora, così. Allora, qualche giorno fa a Venezia, Digital Venice, sì, digital. Non devo farcela senza ridere, ha parlato per 28 minuti in inglese Matteo Renzi. Però. Allora, noi ne ascoltiamo solo qualche secondo e io prometto di essere buona. Eccolo qua. My mother who cry in the TV when she feeling with the she felt the Berlin walls destroyed by the people. Because the idea without marketing a commercial structure the results are not good. But for a country this is also the representation of possibility. Now is the time to eat to the lunch and for Italian politician is absolutely crucial to say now is the time of lunch. The Time of Lunch. Ma scusa, ma riesce a fare persino le battute, le sue battute. Io non voglio commentare perché non ci riesco, lanciarsi, perché sto ridendo. Cosa ridi così tanto? Ma è quello, a parte che è presidente del consiglio, mi di rispetto. No, certo, no, rispettissimo. Però... Guarda che io sono contro la timidezza nell'utilizzo delle lingue straniere. Certo. La sai sei? Però parlala da 6, la 6, 7, parlala da 7, fatti capire come riesci. Poi certo, Mario Monti probabilmente è un eloquio, Mario Draghi, diciamo così, più che ti fa ridere di meno. Ma perché non ne torniamo a parlare questa settimana? Non solo perché è una settimana che rido, ma perché? Hanno fatto le parodie in rete. Ma certo. Ce ne sono due che mi sono piaciute tanto. La prima è di M Shoes DJ ed è questa qua. Vabbè, questa così è un po' così, ma soprattutto io sono impazzita per quella di Christian Ice, che anche allora questa era Let's Get the Rancy Groove, invece quella di Christian Ice è Shish is the Word. Eccola qui. She felt. He was a worker, so he invented the TV one, because in the field, in the structure, in the marketing, in the commercial, in the lessons, in the TV. Questa è bellissima questa, perché c'è anche tutto il video, lui è Christian Ice, gli faccio veramente i complimenti perché... Secondo me questa Renzi alla prossima festa dell'unità a settembre la mette sicuro, perché secondo me gli piace Filippo, prendi nota, Sensi. Sì, non fupa, è un account, possiamo dirlo. Beh, comunque bello. È tutto molto bello, sei pronto per parlare di un argomento che ti sta molto a cuore? È stata una settimana... Allora, finora hai riso tu, ma adesso inizio a ridere io. È stata una settimana... Del resto, luglio è il mese degli interisti da sempre, mi ha detto la persona che dopo ospitiamo. Però quello che è successo questa settimana, nemmeno nella migliore della mia ipotesi di felicità poteva Voi succedere una roba. Voi non vedreste questa faccia genere. A Daniele Bellasio neanche con una bionda spaziale. Vabbè, tra poco dopo il traffico. Radio Tube. Chi avesse seguito RadioTube fin dall'inizio non solo ha sentito che Daniele Bellasio ha preso proprio le redini della trasmissione, ha deciso che vuole lanciare, condurre. Proprio io non oso pensare cosa succederà nelle ultime due puntate di questa trasmissione, che proprio, vabbè, ormai è totalmente fuori controllo. Non solo per quello, ma a un certo punto ha avuto... Proprio si è infervorato, perché questa settimana è successo qualcosa che l'ha mandato totalmente fuori controllo. E io dicevo, ma sarà una bionda esplosiva? Sarà... No, è successo martedì sera. A un certo punto la mia timeline di Twitter è impazzita perché è accaduto questo. Mister, ci troviamo qui perché ha un messaggio molto importante da trasmettere. Qual è? Sì, in effetti c'è da comunicare la rescissione consensuale del contratto tra me e la Juventus, che ci legava anche ancora per quest'anno. In quel momento la mia timeline di Twitter si è trasformata in un'unità coronarica per juventini. Daniele Bellasio in particolare, che come sapete è interista, è impazzito. Ma non sono impazzito, Daniele, era fredda cronaca, da giornalista momento. Dovevo raccontare questo evento pazzesco, improvviso, sorprendente. Tutti i siti avevano la breaking news, era inaspettato, proprio era il secondo giorno di ritiro, cioè come se io al secondo blocco di trasmissione come al secondo giorno di luna di miele uno se ne va. Ecco, esatto, punto. E quindi è una cosa pazzesca. Poi la Juventus è una squadra importante, ha vinto tanto, una società importante, un'azienda importante all'interno di un gruppo importante, insomma una gestione un po' complicata della vicenda, e quindi lo ammetto, mi sono fatto prendere da una sorta di ironia e ho bersagliato alcune delle persone che nel mondo del giornalismo, molto autorevoli, rappresentano un po' la juventinitudine. Una di queste è il direttore di Rivista Studio e anche fondatore di Rivista 11, che insomma non è male, è anche editorial advisor di Rivista 11, che insomma ne abbiamo parlato, è una gran bella rivista, che si chiama Federico Sarica, che abbiamo al telefono. Buonasera Federico. Buonasera, buonasera a voi e ciao a tutti. Sei stato massacrato martedì sera da Daniele, che ha cominciato proprio da interista cattivo. Ma mica solo io, voglio dire, i ragazzi tutti. Di tutti i convocati, figurati cosa non hanno combinato. Ti sei ripreso? È stata in generale una settimana difficile, sono ore difficili. Ci ha bersagliato Daniele, ci hanno bersagliato tutti, ma noi, voglio dire, siamo abituati, anzi misuriamo la nostra forza. Per quanto siamo importanti nelle vite social e non social dei tifosi e delle altre squadre, ecco. Quindi, Federico, ma è stato davvero così in attesa? Cioè, davvero questo... Sì, è stato inatteso, perché comunque noi pensavamo di avere, da tifosi e anche un po' da giornalisti e osservatori, di aver rimandato il problema all'anno prossimo. Quindi dal punto di vista di quando è successo è stato uno shock, lo ammettiamo. È vero anche che da juventini noi sappiamo che dall'estate scorsa e non da questa il rapporto fra Conte e la Juventus è diverso, per cui noi sapevamo che in un arco temporale che andava dall'estate del 2013 a quella del 2015 prima o poi questa cosa sarebbe finita, perché l'uomo è così, Antonio Conte è così, adesso tutti ovviamente l'hanno scoperto e tutti lo vogliono in nazionale di qua di là, perché insomma è caduta la facciata degli anti-juventini a cui non piaceva perché era juventino, e tutti ammettono che è il miglior allenatore che abbiamo in Italia. Per essere il miglior allenatore che abbiamo in Italia lui usa questa tecnica comportamentale relazionale qui, che è sempre di tensione perenne con i collaboratori, i giocatori, i tifosi, la stampa, ed è sempre un gioco a smarcarsi anche da certi affetti, da certe relazioni. L'uomo è libero, è vagamente pazzoide come tutti i geni, e quindi ci ritroviamo in questa situazione. Dal punto di vista proprio comunicativo, ecco, bravo, di questo tono lacrimoso e di questa aria afflitta, cioè mi ha un po' stupito, perché tutto sommato, cioè è lui che se ne va, adesso da osservatrice esterna, lui che se ne va, invece la messa in scena era forte, sì, drammatica. Beh, lui, Antonio Conte, non ha mai avuto un eloquio, è una parlata felice, diciamo così, vibrante, è uno che o urla in panchina o ha quel tono lamentoso che piace, mi è piaciuto fino a martedì ai juventini ed è sempre stato odiato dagli altri. Quindi secondo me c'è un po' di tono suo, c'è un po' del fatto che non dimentichiamo cos'è stata la Juventus per Antonio Conte, per cui in quel momento lì secondo me gli sono venute fuori tante cose che lui aveva dentro. Antonio Conte non arriva alla Juve nel 2011, Antonio Conte arriva alla Juve nel 91 da giocatore di provincia del sud semi sconosciuto, da famiglia povera, è uno che ha sempre detto a me Boniperti mi ha tra virgolette salvato la vita, per cui secondo me c'era dentro tutta quella tragicità nel video. Poi c'era ovviamente anche la messa in scena, e lì è frutto sicuramente di un accordo, il famoso accordo consensuale con la società, di cui credo che alla fine la verità vera di cosa sia successo non la sapremo mai. Ecco, non so bene che video vogliamo mandare, però nel non saperlo vorrei dire una cosa che da interista però va riconosciuto. Dopo Mourinho, nel mondo del calcio italiano, il personaggio, diciamo, successore dal punto di vista del centro del palco della scena calcistica, ma non solo, anche della comunicazione, è stato proprio Antonio Conte, tanto è vero che su internet è successo il finimondo, su Twitter, video, parodie, i capelli, solite cose, le frasi storiche sue, tutto questo. Mi piacerebbe sapere, decidi tu Marta, se prima o dopo il video, conoscere secondo Federico qual è il segreto di questo mettersi al centro della scena in un modo diverso, ma come forza, allo stesso modo di Mourinho. No, dici Federico. Ma sì, sicuramente il paragone è giusto, poi sono tutti diversi a questi grandi allenatori, hanno sicuramente il tratto in comune di avere delle personalità enormi, me lo insegnate voi che fate questa trasmissione, in un'epoca in cui la comunicazione tutto gira attorno a queste grosse personalità, questi personaggi che riescono a polarizzare, tant'è che il dramma vero degli juventini in questi giorni qua, della successione, al di là del livello tecnico, del progetto, del calciomercato, di tutto quello che sarà, io credo che alla fine sia il vuoto comunicativo che lascia Antonio Conte. Antonio Conte polarizza, per cui era per noi l'eroe da mandare davanti, per gli altri bersaglio facile da colpire. Le discussioni vertevano sempre intorno alle sue frasi sconclusionate, ai suoi modi di dire, alle sue trovate in campo e fuori dal campo, questa sua eterna tensione. Per cui io credo che in questo momento se lo perde il calcio italiano, perde, al di là della natura, perde un grande personaggio. Secondo me in questo momento noi abbiamo estremamente bisogno di personaggi in generale, ce lo dice insomma la situazione politica in Italia in questo momento. Io volevo tornare appunto sulle parodie, visto che le avete citate, di Gabbo Ever, Conte lascia la Juve e noi? Agghiacciante quello che dicono! Agghiacciante quello che dicono! Agghiacciante quello che dicono! Agghiacciante quello che dicono! Agghiacciante quello che dicono! Agghiacciante quello che dicono! Vabbè, anche qui, come nel caso di Renzi, di il remix è qua, insomma, con l'agghiacciante di... L'agghiacciante ormai tradizionale. No, però è vero, effettivamente, Conte è un altro di quelli su cui sono scatenate tutte le parodie, gli hashtag, e il povero Allegri c'è, cioè, veramente anche contro... È arrivato Allegri? Ma sì, no, niente, Bellasio non ce l'ha... Guarda. No, vabbè, ma già era bella la notizia, diciamo, la prima, cioè, figurati la seconda. Ma un po' di dovere di ospitalità abbiamo chiamato, no, Federico Sari, che lo tratta. No, ma io sono abituato a questo. Ma dico io. Per essere seri, è quello che diceva prima Federico, di Allegri, quello che fa un po' paura allo Juventino, ti chiedo Federico, è questo, questo vuoto di comunicazione e capacità di prendere tutte le frecce su di sé, no? Sì, io credo di sì. Poi appunto torniamo a Mourinho di prima, torniamo... in altri modi, per non fare degli esempi di persone simili, in altri modi anche a un Ancelotti, cioè, che è un tutt'altro tipo di persona, però ha una personalità enorme, ingombrante, per cui alla fine, nel bene e nel male, parli di lui, la responsabilità è sua, i meriti sono suoi, i calciatori sono i suoi calciatori. Secondo me quello che teme adesso lo Juventino, al di là dello shock di veder finita questa storia, ripeto, Conte per la Juve per Conte non era solo un rapporto squadra-allenatore, cioè è una storia lunga, più di 20 anni, c'è proprio secondo me la paura di non avere il condottiero, per cui io credo che ad esempio sarà importantissima una personalità come quella di Buffon, perché gli altri grandi giocatori che sono adesso alla Juve sono poco comunicativi, Pirlo, i Tevez, tutti i grandi, e poi sopra c'è ovviamente poi una preoccupazione tecnico-tattica e di progetto, cioè secondo me, ma non solo secondo molti juventini, non solo juventini, Conte di nuovo è uno che attrae, che ne dicano, che ne abbiano detto quelli come Daniele per 3 anni, l'unico allenatore italiano di cui si parla nel resto del mondo, Antonio Conte, gli altri non esistono, tolto Ancelotti ovviamente. No, ma come allenatore è vero, questa cosa dei condottieri, posso chiederglielo cosa ne pensa dell'inglese? Secondo te un primo ministro, per esempio, a caso, uno un po' condottiero, deve utilizzare l'inglese anche quando non è come quello di un insegnante del British Council? Sì, secondo me sì. Ma sì, ma viva la faccia! Ma no, è che poi a me scappa un po' da ridere, ma un pochino. Ah, è chiaro che se Renzi avesse un inglese migliore sarebbe meglio, bello per tutti, più nel personaggio, la costamazione, generazione, tutto. Però non dimentichiamoci che Renzi, i discorsi, le conferenze stampa e tutto quello che fa, non parla con noi giornalisti addetti ai lavori fissati, che lo hashtaghiamo tutto su Twitter. Parla con la gente a casa mediamente parla quell'inglese lì, per cui... preferiscono sempre quello che si butta 2 metri dopo rispetto a dove potrebbe andare di quello che fa 1 metro in meno, per cui viva Renzi che parla inglese così. Io però vorrei concludere con un tweet che mi è piaciuto tantissimo di Cevolazzi, chiocciola Isabubu, che secondo me dice tutto di questo affair Conte. Per la rubrica pareri tecnici sul calcio senza saperne, sembrate dei tartarugoni ribaltati, quindi questa cosa di Conte deve essere grave. È verissimo. Senti, ma studio che succede? La mia redazione ovviamente, credo in queste ore, in questi giorni, si è preoccupata per la mia salute e stabilità mentale. Sali. No, a parte tutto, noi adesso abbiamo questo giovedì il 24 in uscita il primo numero solo digitale di studio, ed è un esperimento che facciamo, usciamo solo sull'applicazione per iPad di studio e su una serie di edicole digitali, ed è il primo speciale annuale che rifaremo tutte le estati dedicato alla scrittura, alla lettura, ai libri e a quel che diventeranno, quindi è l'edizione digitale ideale di studio da portarsi in vacanza. È lo studio da edizione ombrellone. C'è lì Conte che legge, tanto un sacco di tempo libero. Esatto. Grazie Federico. Ciao Federico. Grazie per essere stato con noi. Chiocciola Federico Sarica, direttore, chiocciola rivista studio, editorial advisor, chiocciola rivista 11, volevo dirle tutte. Ma anche l'hashtag no Allegri alla Juve, è stato trend topic. YouTube. abbiamo parlato di calcio, abbiamo festeggiato. Ma scusa, cosa ci fanno gli appunti di Bersani della puntata scorsa nel foglietto della scaletta? Scusa. Non lo so, adesso che me l'hai fatto notare sono qua che non riesco a smettere di ridere. Ma è una cosa strana, c'è Bersani, sì. Levi Meta. Oh, finalmente una giornalista di cui sono fan io. Oh, finalmente, soprattutto una che, con la quale potremmo parlare anche di Bersani, però in realtà è rimasta la scaletta della settimana scorsa. Ho scritto un pezzo su Bersani, me lo ricordo ancora, sulla prima pagina del Foglio. Vabbè. Anche se tu non ti sei ancora ripreso. Sulla pelata di Bersani. Non ti sei ancora ripreso da quello che lei ha scritto questa settimana. Sì. L'hai postato anche sul tuo profilo di Facebook. Condividendo una cosa che aveva postato Chiara Geloni, salutiamo quindi, Chiara Geloni. Tutto si tiene, ecco. Tutto capito. Vabbè, io penso che non sia neanche necessario presentarla con, con troppe parole. No, no, ma anche perché io sono terrorizzata da lei, come giusto che tutti siano terrorizzati da lei. Poi ho fatto anche la radio, credo. Ma lei ha fatto tutto. Ma no, ma io ho tantissima... Guia Soncini al telefono. Buonasera, finalmente. Guia, finalmente. Sono finita nel vostro tinello dove parlate dei fatti vostri. No, noi sì. Devi sapere che noi tubiamo, radio tubiamo. Guia, signore pietà, cattivissima sì. Guia Soncini, sì. Questa settimana, la scorsa settimana tutti stavano guardando. Ma cosa ho scritto però, che Bellagio ha postato, devo toglierlo dal live. Era sul blog, hai presente quel blog dei mariti, delle mogli degli altri, no aspetta. Yes. La moglie tua e le tue esatto. Moglie buoi dei paesi tuoi. Sì, però nella scaletta questo lo dovevamo dire dopo, perché l'audio-video di Eri ti presento Selli. Se è in grado di star dietro a una scaletta come io di parlare di astrofisica. Esatto. Sicuramente, sicuramente. Comunque era il terzo audio, adesso noi chiediamo. Chiediamo a Paolo, poverino, di mandare subito il terzo audio, così capiamo di cosa parlava il pezzo di cui Daniele Bellasio questa settimana si è perdutamente innamorato. Guarda che Selli ordina da Dio. Non solo sceglie la cosa migliore del menù, ma la ordina in modo che anche lo chef rimane a bocca aperta. I ristoranti sono diventati troppo importanti. Oh, sono d'accordo. I ristoranti per gli anni 80 sono ciò che il teatro era per gli anni 60. L'ho letto su una rivista. L'ho scritto io. Non è possibile. No, sul serio, l'ho scritto io. Non ho mai citato una rivista in vita mia. È sorprendente, non è sorprendente. Tu l'hai scritto. Ho scritto anche Il pesto è la nostra droga. Non me lo dire. È così. Dove l'ho letto? Sul New York Magazine. Oh. Lei scrive sul New York Magazine. Nessuno mi aveva mai citato un mio pezzo prima d'ora, sai? Il blog è I mariti delle altre, diciamolo per bene se qualcuno non lo conoscesse. Il pezzo era Quando Nora prese la Bastiglia. Il 14 luglio del 1989 era il bicentenario della Rivoluzione Francese. A Guia Soncini sono successe molte cose, ma soprattutto si è ricordata così retroattivamente di questo anniversario, di questo film che ci ha formato tutto il nostro immaginario. E io ho scelto questo estratto perché una delle citazioni che riprendi tu nel pezzo del blog, finalmente, insomma, è ovvio. Scusate se faccio da conduttore, il film era Harry ti presenta Sally, non l'ha detto nessuno. No, l'ho detto, Guia, mi sgridi sempre, ma l'ho detto. Ma la domanda qual è? Però io vorrei dire una cosa, la vostra crudeltà nell'avere selezionato questo frammento che rende evidente che io sono l'unica spettatrice al mondo che non si immedesima in Sally, ma si immedesima nell'amico di lui che si innamora istantaneamente di quella che dice, ho letto il tuo articolo, esatto. È bellissimo. Anche perché tutte le altre avrebbero citato l'orgasmo simulato, l'amicizia tra l'uomo e la donna. E invece io sono andata a prendere lo script per trovare il punto esatto di questa citazione. Ma perché è importante? Meno male che c'è qualcuno che lavora di questo, aspettavo. Ma guarda, chi porta i pantaloni in questa famiglia? Però arriviamo al dunque, perché il 14 luglio, Nora Ephron, Harry ti presento Sally? Era il 25ennale Bellasio, benvenuto sulla ecco. Terra. No, è che lui ha letto il pezzo, se n'è innamorato, ma secondo me si è concentrato sul si è concentrato della mia adolescenza sulla tua adolescenza. No, tutto sommato no, della nostra, in fondo è tutta la nostra adolescenza. Ma noi ti abbiamo chiamato anche per un'altra ragione. Dunque, il punto è che tu hai azzeccato da quasi critica televisiva il fatto che mentre domenica scorsa tutto il mondo stava guardando la partita di calcio della nazionale. Io in verità sono partito esattamente quando partirà, ma comunque la finale dei mondiali di calcio, improvvisamente su Rai 3 è comparso questo video che stiamo per mandare. Pizza fredda e birra calda, tutta la rovescio come nella vita. Ma sei mai stata innamorata? Mi innamoro tutte le volte, darei 10 anni di vita per innamorarmi almeno una volta. E allora comincia dalla coda, sposati. Già fatto, 2 volte, la seconda volta per 4 ore a Rio. Quando mi è passata la sbronza sono subito corsa dal giudice. E la prima? Avevo 17 anni. Adesso quanti ne hai? 16. Allora, abbiamo parlato del nostro immaginario adolescenziale, che era quello di Harry, ti presento Sally. Dobbiamo provare a non dire generazionale. Stiamo scadendo, Guia, nel generazionale. A me, no, invece quella sera Daniele Bellasio ha dovuto arrendersi a dire che forse bisogna dire generazionale. Sì, è vero, l'ho scritto, è bravo. L'hai scritto, mi ricordo tutto. Guia, tu non hai visto la partita e twittavi su Sapore di Mare. Io non ho mai visto, ho visto due partite nella mia vita, se vuoi ti dico anche quali, è una cosa interessantissima che sono certa vorrei sapere. Sì, soprattutto Daniele, che come hai visto quando tu scrivi qualcosa in realtà lui si dimentica la notizia ma legge della tua vita. Beh, è lo stile che mi colpisce, diciamo. Wow, tu sai come se dormi. Cosa dobbiamo dire? Pizza fredda e birra calda, voglio dire, dobbiamo dire qualcos'altro. Si aggiungono chiose ai capolavori, non si fa. Anche perché noi, probabilmente, quando l'abbiamo visto allora, vabbè, eravamo troppo piccole, ma non capivamo il genio insito nella personalità, soprattutto di Eleonora Giorgi, dalla quale avremmo dovuto imparare tutto. Già ma allora. Soprattutto non capivamo che bisogna ritirarsi, nel senso che in 2 anni Eleonora Giorgi ha fatto Borotalco e Sapore di Mare 2. Non le sarebbe chiaramente potuto capitare di meglio. Perché non si è ritirata? Come Antonio Conte, bisogna capire quando. Non si è mai ripetuto. Guarda che l'uscita di scena è un concetto importantissimo. Non c'è dubbio. Io la sto studiando da una vita, continuo un po' a lavorare. È solo che stai aspettando un qualche successo per poi esatto, uscire di scena, esatto. Che aspetta tutta la vita di averne uno per uscire di scena, io ti capisco, anch'io un po'. Allora, Sapore di Mare 2 un anno dopo, adesso dirò la banalità, viene dopo Sapore di Mare il numero 1, che non aveva un numero, perché non poi... Non c'è niente che fa. No, ce l'ho fatta da sola. Io quando vorrei... dico che sei secchiona. studio tutto. C'è anche un pezzettino da ascoltare di Sapore di Mare senza numero, perché è stato il primo ed è questo qua. Ehi, hey, my brother fratellone, c'è un gran movimento stasera giù in capanna, Sembra il figodromo di Monza. Beato te che ancora ti diverti a venirci qui. Se fosse per me me ne starei impiantato davanti al video, poi in branda la mia fighetta, gli do un colpetto e via di sonno rilassante fino al giorno dopo, come una bestia. E che a te, te manca la poesia? No, è che a voi mancano le fighe, dai sedetevi, va. Questo che dire. Devi sapere, Guia, sai che Daniele Bellasio conosce tutte queste citazioni a memoria? Allora, lui è più forte. Le conosciamo tutte, ma alcuni fanno finta di no. No, lui. I peggiori non sono quelli che fanno finta di no. I peggiori sono quelli che le sanno, ma non sanno la provenienza. Quelli che se le giocano pensando che arrivino, che so. Sì, l'ha scritto anche sul post che noi le citiamo senza saperle. Sì. Io sono più ferrato su Vacanze di Natale. Sì, infatti, dicendo tu sei più Vacanze perché di più Natale. Da maschi, secondo me. Sapore di mare. Vacanze di Natale è la matrice, in Vacanze di Natale c'era tutto. Ieri mi sono resa conto che altro che Harry, ti presento Sally, a marzo è stato il 25enne delle finte bionde, cui c'era già tutto, però in Vacanze di Natale c'era ancora più tutto, perché le finte bionde è romanocentrico, mentre lì c'era anche il milanese che Alboreto is nothing, eccetera. Io devo dire che i Vanzina secondo me sono i più grandi sociologi della storia del cinema contemporaneo, e soprattutto io questa cosa l'ho sempre detta loro, dovrebbero girare i finali di tutti i film italiani. Cioè, sono i più grandi raccontatori dell'Italia, se scusa sì, che interrompo. Sì. No, quelli sono bravissimi. È una cosa, sempre parlando delle finte bionde, un dettaglio che mi è sembrato emblematico è che cercando la data d'uscita, sono andata a guardare negli archivi dei giornali gli articoli, cercando la recensione di quando era uscito. E ci sono giornali che non l'hanno neanche recensito, tanto era considerato un film al di sotto degli standard da critico, diciamo. E però negli archivi degli stessi giornali poi trovi negli anni successivi è diventato un parametro di commento di costume per giornali che all'uscita l'avevano ignorato. E poi c'è anche sempre questa sindrome per cui ai Vanzina vengono attribuiti i cinepanettoni, che sono in realtà spessissimo di Neri Parenti. Loro hanno girato l'archetipo, ma non sono responsabili di quello che è venuto dopo. C'è una gran confusione, sì, per i Vanzina. Sì, ma soprattutto viene considerato te lo trasla in berlusconismo Bellasio, che è più bravo di me sulle cose di politica, ma c'è un elemento per cui il raccontare, il prendere atto, il fotografare una realtà esistente viene considerato un generare quella realtà. Cioè, non è che loro si sono inventati la volgarità borghese. La volgarità borghese esisteva, sono stati solo più bravi degli altri a vederla e raccontarla. Nei cambiamenti però dei palinsesti c'è da dire che questi due Sapore di Mare sono finiti su Rai 3. No. Era già successo, guarda, sono andata a fare una ricerca su Twitter l'altro giorno. Gli stessi tweet praticamente, perché poi dico sempre le stesse cose, su Sapore di Mare, li avevo il 14 agosto del 2013, quando Rai 3 aveva mandato Sapore di Mare. Ecco, però, evidentemente però secondo me è interessante che già l'anno scorso fosse, perché lì rientra il generazionale, il fatto che cambia il pubblico di Rai 3, il fatto che il pubblico di un'altra rete che probabilmente era, faccio per dire, Italia 1 fino a qualche tempo fa, diventa di Rai 3, che però li perde a favore di un'altra rete che diventa la 7, che infatti prende quelli di Rai 3. Quindi c'è tutto uno spostamento. Francamente, considerato quello che sta succedendo in onda a Rai 3, escludo che ci sia una volontà, ecco, studio alla base. Perché tu devi sapere che lui non ha il coraggio di dire, cioè, sai cosa ha commentato il giorno dopo, cosa mi ha scritto? Mi ha scritto: ma il meglio del palinsesto lo stanno dando in fondo. L'ha scritto lei, guarda che l'ha scritto lei, non l'ho scritto io. Ah, l'ha scritto Guglia. Tu citavi subliminalmente. Sei tu, no? Che l'hai detto? Io vorrei ricordare che martedì sera, con un nuovo programma su cui hanno, mi pare, puntato abbastanza, Rai 3 è riuscito a fare lo stesso ascolto di Mentana, che ha improvvisato uno speciale in ciabatte dal suo tinello con Renzi in streaming. Vabbè, ma e dopo veniva il mono, no, ma queste sono cattiverie. Allora, coi soldi con cui a Rai 3 hanno illuminato l'esterna della piazzetta di Porto del Fondo, Mentana fa un mese di trasmissione. Ma no, ma siete troppo cattivi, ma che è estate? Peraltro vorrei sottolineare, perché c'è una cosa sola che salvo della grande bellezza ed è la battuta di Verdone in cui dice: in questo paese bisogna prendersi sul serio, che è stata molto presa sul serio, mancando completamente di umorismo, per cui l'esterna da Porto Rotondo, che era super vanziniana, se trattata con un certo umorismo avrebbe avuto molto senso. Invece sono andati in piazzetta Porto Rotondo e hanno preso sul serio. Vabbè, diciamo che trasmissione era, dai, lo facciamo, diciamo, si chiamava Millennium, noi abbiamo il coraggio. L'avete presa di mira prima ancora che iniziasse. No, comunque, tre colleghe donne, dovete fare squadra, dovete piantarla di sbranarvi tra di voi. Ma, capito, cioè, se uno dice che... capito, perché se un uomo dice che un altro uomo è una pizza, è un sagace critico, e metti se una ordine. Donna dice che un'altra donna, Cagnola, ha fatto un programma che è andato male, femminicidio, cioè, ma di che? Io voglio sempre la Soncini, datemi altre dose di Soncini. Invece ti subito. Hanno rifilato me come co-conduttore, semmai sono io che dovrei dire. Vabbè, Soncini, torni, c'è ancora il traffico, speriamo ci sia il traffico. Sì, c'è il traffico, ma Soncini, torni ancora a dare un po' di pugni in onda a Bellasio con me. Guardi, Cagnola, quando vuole, io quando c'è da usare Bellasio come punchball sono qui. Grazie. È bellissimo. Guia, grazie per essere stata con noi. Ciao. Io grazie, dico semplicemente che lei è su Twitter chiocciola la Soncini. Radio Tube. E come vola il tempo quando ci si diverte anche il sabato pomeriggio di luglio, perché noi con Radio Tube ci siamo anche per tutto il mese di luglio. Anche il 2 agosto? Sì, secondo me facciamo una capatina anche in agosto. Anche in agosto. Questo è l'angolo dei palinsesti. Abbiamo affrontato i palinsesti di tutte le principali televisioni generaliste italiane. Già esistenti però. Già esistenti. Però noi ci proiettiamo, ci piace l'innovazione, verso il futuro. Sì, e il futuro dov'è secondo te? Oltre confine. Oltre confine. Allora, non ci sono confini nel futuro. Io vi faccio ascoltare un pezzettino che io ho trovato su YouTube di una televisione che si chiama Gone Channel. Riconoscerete probabilmente la lingua, riconoscerete il personaggio che tra poco sarà con noi per presentare un progetto che mi incuriosisce molto, voglio sapere tutto. Ma intanto ascoltiamo questo brevissimo audio da Gone Channel. Nel studio in Cedrore Tlenere, cambrito il mio pre-icona della televisione italiana, io vetëm korrespondenti i njohuri CNN-it, një mik që rikthehet në studion ton, një bashkëprezantues, vjeni Alessio Vinci, dhe siç kemi bërë gjithmonë në transmetimet e Agon Channel, ne bëjmë drejt për drejturen. Benvenuto, caro Alessio. Come stai? Bene, grazie. Bene. Ben trovati. Era la stessa lo stesso studio, eh? Lo stesso studio dove ti ho lasciato, mi ricordo aver trascorso qui tantissime ore in questo studio, sì, e nell'altro sì. Studio. E adesso siamo qua per osservare questo cambiamento. Io vorrei accompagnare Agon Channel nella crescita di questo paese. Così cresce il canale, cresce il paese. Avete riconosciuto Alessio Vinci, buonasera Alessio. Buonasera Marta, buonasera Daniele. Allora, buonasera. Questo era in realtà un audio di un po' di tempo fa, però secondo me è molto interessante, perché tu eri ospite di questa rete che intanto andava in onda in Albania con personaggi albanesi e che insomma aveva un palinsesto molto ricco ma assolutamente pionieristico, e intanto tu dicevi cresce la televisione e cresce il paese, e questo secondo me è un aspetto interessantissimo, perché stiamo parlando di una frontiera, di un paese entusiasta, giovane e con tante prospettive. Adesso però sei pronto a fare qualcosa di più, Alessio? Sì, diciamo che quello era ed è un canale che ancora esiste, che si chiama Agon Channel, che va in onda in albanese, in Albania. Io sono arrivato lì l'anno scorso, sono rimasto lì un anno dove ho partecipato sia alla crescita del canale, dove ho fatto anche dei programmi miei, dove partecipavo sia come conduttore sia come giudice all'interno di uno dei tanti talent che abbiamo lanciato, in particolare uno di cui sono molto fiero, che era il talent sul giornalismo. Quindi io facevo un po' il giudice cattivo del giornalista che veniva da fuori per promuovere o bocciare i concorrenti albanesi. Quello che facciamo invece adesso, che stiamo cercando di fare invece adesso per il prossimo autunno, è un canale gemello a quello albanese, però in italiano, sostanzialmente un canale in lingua italiana con personaggi italiani, con programmi in italiano. L'unica, diciamo, differenza, se vuoi, ma al telespettatore questo sarà poco chiaro, che questo canale è interamente, diciamo, prodotto e assemblato nei nostri studi di Tirana. Beh, non è poco questa novità, cioè, no, è una bella novità, ma anche perché, se non ho capito male, anche l'imprenditore, poi avrai altri colleghi comunque italiani, giusto? Assolutamente, io ci tengo a dire che in questo momento, forse avendo sposato questo progetto per primo già un anno fa, intanto ho ritrovato lì degli italiani che ancora ci sono e che vanno riconosciuti. Cioè, questo canale esiste in Albania grazie al lavoro soprattutto di tre o quattro italiani che sono lì e che ci lavorano già da un anno. Parlo di un Maurizio Palladino, parlo di Marco Olivari, parlo di italiani che sono lì e che sono lì tutti i giorni. Io in quest'ultimo anno ho fatto avanti e indietro tre giorni qua e tre giorni là. Il canale che invece stiamo per lanciare in autunno in Italia, oltre a loro ci saranno dei nuovi volti della televisione italiana, più conosciuti, meno conosciuti, che invece si trasferiranno insieme a me a Tirana per lavorare dagli studi lì. Ecco, ma Alessio, c'è stato all'inizio di questa tua esperienza un po' di polemica anche sulla stampa italiana, non possiamo non citarla, dovuta al fatto che alcuni format assomigliavano un po' a format che si vedevano sulla TV italiana. Sì. Il progetto che state avviando contiene format nuovi, originali? Sì, sì, guarda, allora io avevo sostanzialmente bisogno un po' di provocare, di smuovere un po' le acque, no? di tirare un po' il sasso nello stagno. Che cosa volevo sostanzialmente provare io? Che anche a Tirana, con le risorse che noi avevamo a Tirana, con le capacità produttive che avevamo a Tirana, eravamo capaci di fare dei programmi assolutamente in linea con la qualità dei programmi e dei prodotti che si vedono in Italia. Quindi sostanzialmente cosa abbiamo fatto? Ne abbiamo fatto dei programmi che sono simili a quelli che ci sono in Italia, e in Italia subito hanno cominciato a dire che noi copiavamo, il che ci hanno sostanzialmente confermato che i nostri programmi erano belli, erano talmente belli che assomigliavano a quelli fatti in Italia, con una differenza fondamentale: che il programma X che veniva fatto in Italia costava 150.000 euro a puntata, dove invece io spendevo meno di 15.000 euro per fare esattamente lo stesso programma, e lo dicevano loro che erano uguali, non io. E quindi adesso è arrivato Renzi, c'è la spending review anche e lui. Quindi spending review secondo me è proprio una questione che ci sono dei meccanismi e dei sistemi produttivi in questo momento in Italia che non sono più sostenibili. Sì. Io, visto che tu prima hai citato una trasmissione, credo di averci visto giusto, perché tra tutti i programmi che io mi sono guardata della Gon Channel albanese per capire un po' cosa hai fatto finora, sì, nella televisione albanese, avevo scelto proprio questo. Eccolo qua. Kjo ishte disa nga momentet, në fakt, por duhet të pyes juridikisht, kjo ja si duken paktën konkurrentët, a kanë ndonjë evoluim, a kanë ndonjë zhvillim, pa përmendur emra, apo por si materiale, si prurje. Io sono molto deluso. Un jam shumë i zgjënjur. Abbiamo visto 11 servizi. Pam 11 cronica. Questi 11 soltanto 4. Nga këto vetëm 4 ishin perfekte. Solo 4. Vetëm 4. Ma poi soprattutto vorrei sapere, por para se gjithash duhet të di që tema ishte arsimi. Chi di voi ha visto Veni? Cili nga ju e ka par Veni Vidi Vinci të Hënën në Dark? A ka par njëri? Quanti? 5. Më pak se gjysma. A Alessio, ammazza, ma, severo. Ma le interrogavi sulla tua trasmissione per vedere se l'avevano vista? È un po' complicato da spiegare in pochi secondi sulla radio. Sostanzialmente questo era un talent sul giornalismo che ho scritto insieme a un collega e di fatto abbiamo dei concorrenti aspiranti giornalisti e io gli davo un tema della giornata, più c'era un tema libero. Allora, sostanzialmente cosa facevo? Siccome io contemporaneamente a fare il giudice su questo programma, ero anche il conduttore e l'autore di un altro programma televisivo, quindi io tendevo di solito a ottimizzare i tempi, perché rimanendo a Tirana solo 3 giorni, cosa facevo? Utilizzavo i temi che io andavo ad affrontare nel programma che conducevo per assegnare i compiti della settimana ai giornalisti. Il problema è che pochi di questi si erano resi conto che io utilizzavo questa tecnica. E quindi a un certo punto, alla quarta volta, mi sono detto: ma scusate, ma voi lo guardate il canale nel quale state facendo, capito? Sarebbe da importare questo. La prima, il giornalista deve innanzitutto essere curioso e guardarsi attorno. Se voi non avete capito che il tema che vi do è il tema che poi io affronto in una puntata, se volete avere un buon voto, dovete almeno vedere come lo faccio io. Non solo dovete copiarlo, ma almeno pensa se lo importassimo davvero. Appunto, in certe reti. In certe giornate. E questo voglio sapere, perché allora A, se ci sarà, B, se io vengo a fare il casting per farla concorrente, sì, non devo parlare l'albanese, vero? Perché è tutto in italiano. No. Però allora, vengo a girare a Tirana come concorrente. Ripeto, chi guarderà questo canale in autunno vedrà un canale in italiano con facce italiane, con programmi italiani che saranno tutte produzioni originali nostre, cioè lo produrremo tutto quanto noi. Quindi i programmi li faremo noi nei nostri studi lì. Non ti posso dire, perché stiamo ancora costruendo il palinsesto, se il talent sul giornalismo, quindi americano primo sulla notizia, si chiama il programma, ci sarà subito all'inizio o se lo utilizzeremo magari nella seconda parte della stagione, però sarà uno dei tanti talent e reality che noi proporremo all'interno del nostro palinsesto. Però pensa che bello, solo 10 anni fa i canali erano 6 o 7. Ma pensa che roba! Al massimo 10, qui siamo già oltre confine, è una cosa bellissima questa. Alessio, ti posso chiedere un'ultima cosa? Visto che i casting sono già in corso, come sono i ragazzi che vengono a fare il casting, che vogliono venire a lavorare a Gon Channel? Allora, una cosa che mi fa davvero molto piacere, Marta, è che tu parli di ragazzi, ma in queste prime giornate di casting io ho incontrato ragazzi che hanno 18, 19, 20 anni che vogliono fare le cose, ho conosciuto persone che hanno anche 30, anche 40, anche 50 anni, quindi è davvero un casting aperto a tutti. Noi stiamo cercando più o meno attori, attrici, aspiranti conduttori televisivi, aspiranti giornalisti, comici, aspiranti conduttori radiofonici, conduttori telefonici, sì, ma sai, ormai voi siete talmente rodati certo. E secondo me anche col fatto che magari conoscete uno dei no, poi adesso ne esatto, è per questo che l'abbiamo invitato. Ma poi invitato. Soprattutto a farvi, io vengo a fare il talent come concorrente, perché so già magari come già, sa come giudici, così no? Una bella voce, so già come magari si vince poi. Alessio, che meraviglia, sai che mi piace molto questo entusiasmo. A quando settembre? Che più o meno che giorno? Guarda, non si sa, autunno. Dell'autunno, perché veramente stiamo costruendo, montando e smontando palinsesti ogni giorno, quindi diciamo che nella seconda parte dell'autunno noi dovremmo essere, siamo pronti. Non ti posso dare ancora una data perché non ce l'ho, ma insomma l'annunceremo a breve. Voglio solo dire che c'è uno slogan che mi sta particolarmente a cuore per questo canale, cioè il protagonista sei tu, non tu Daniele, non tu Marta, per ora Alessio, per ora lo spettatore, cioè, noi vogliamo fare una TV che sia leggermente diversa, fresca e che sia soprattutto sintonizzata sul desiderio dei telespettatori. E come lo faremo? Beh, chiedendo a loro che cosa vogliono vedere giorno dopo giorno. Che meraviglia, ma anche social. Teniamo quando d'occhio parte, questo. Quando sta per partire, sì, così quando volete. Lo teniamo d'occhio. In bocca al lupo, Alessio, che bella avventura. Sono contenta di sentire questo entusiasmo. A presto, allora. Viva. Grazie, ciao, ciao. Salutiamo Agon Channel. Channel. Mi scappa. Salutiamo. Il tuo inglese è buono, devo dire, migliore per certi versi. L'albanese, purtroppo. Del sì. Succitato. Va bene. Vabbè, no, noi però ci dobbiamo salutare perché è finito il tempo per questo sabato. Abbiamo ancora però alcune puntate perché luglio non è ancora finito. Quindi ringraziamo Paolo Corleone in regia. Molto. Prepariamo il biglietto per Tirana. D'accordo. E ci rivediamo sabato prossimo. Ciao.